Il tempo, Meccana numero 13, di tre versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Wal-asr. Per il tempo. Innal-insana lafi khusr. In vero l'uomo è in perdita. Eccetto coloro che credono e compiono il bene, vicendevolmente si raccomandano la verità e vicendevolmente si raccomandano la pazienza.